New Zone, incontro con gli europarlamentari. Bentrovati agli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. Oggi parliamo di pesce spada. Prima l'ala lunga, poi il tonno e oggi il pesce spada hanno subito delle limitazioni alla pesca. L'Europarlamento ha approvato il piano per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo tra Unione Europea e paesi della costa sud. Il timore tra alcuni parlamentari italiani è che, come nel caso del tonno rosso, la nuova distribuzione di quote vada a penalizzare i piccoli pescatori italiani. Ne parliamo con l'Europarlamentare Michela Giuffrida, che saluto. Cosa prevede il piano? Il piano prevede che a questo punto si introducano delle quote, così come effettivamente era già successo in passato, quando l'obiettivo era tutelare un'altra specie ittica, il tonno, e quindi consentire che questa specie ripopolasse il nostro mare. Lo stesso principio lo introduce l'ICAT, è un principio assolutamente condivisibile, siamo tutti d'accordo sul fatto che si debba tutelare il nostro mare, che si debba dare la possibilità al pesce di ripopolare il mare. È stato stabilito che per quanto riguarda il primo anno queste quote dovranno ammontare a 10.500 tonnellate. Ora si capisce perfettamente come il nostro paese, l'Italia, sia quello più coinvolto rispetto ad altri stati membri, perché di queste quote 500 tonnellate sono effettivamente la quantità che l'Italia pesca. È un problema che riguarda l'Italia, è un problema che riguarda un settore in particolare, che è quello della piccola pesca, la pesca artigianale, che è quella che si pratica soprattutto nel nostro paese e ancor di più nel sud del nostro paese. Cosa cambierà allora per il mondo dei pescatori? Cambierà che mentre la domanda rimane invariata, l'offerta sarà minore. Mi spiego subito: se il consumatore decide di acquistare del pesce spada, certo non si porrà il problema che ci siano o meno le quote. Cambierà che a questo punto il mercato sarà falsato, perché arriverà anche pesce, visto che, come ho detto, la domanda probabilmente sarà identica, pesce da altri mercati, da altri mari. Arriveranno sulle nostre tavole quote di pesce spada che giungono per esempio dagli oceani, e a questo punto io chiedo: il prezzo siamo sicuri che non salirà? E per quanto riguarda l'economia, ci sono migliaia di persone nel sud del nostro paese, penso alla Sicilia, dove a Mazara del Vallo c'è la più grossa flotta peschereccia d'Italia, che vivono su questa economia, e c'è un indotto che si muove attorno a questa economia. Come pensa il commissario Vella, il commissario alla pesca, di risarcire queste famiglie? Sono state previste delle quote compensative, degli incentivi? E questo è quello che ho chiesto nell'interrogazione che ho immediatamente presentato alla Commissione, per capire come si voglia tutelare un settore che è prima di tutto un settore economico del nostro paese, e come si pensa di colmare questo divario, queste disparità, visto che ci sono stati membri in Europa, penso alla Germania, penso alla Lituania, che certamente non avendo mare non hanno interesse a lottare in questo settore. U-Zone. Incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.